Ed eccoci qua, ben trovate a tutte, ciao da Pink Chloe e da Dona Sonica, questo è The Chart, come diceva la nostra sigla, puntata numero 13. Oh, saluto. Speriamo che porti bene, insomma. Dai, sfiga già ce n'è abbastanza, quindi speriamo che porti bene. Benissimo. Puntata numero 13, abbiamo iniziato questa avventura a ottobre, contavo che sono passati praticamente 7 mesi. Ci trovate sul blog dell'MFLA, che è mfla.noblogs.org, nonché sul nostro womenchart.wordpress.com. Un mondo folle ma piccolissimo. Ma non piccolissimo, ma piccolissimo. In realtà grandissimo, stiamo facendo, come sapete, per le nostre ascoltatrici, anche per chi per la prima volta si mette in ascolto di questo programma, stiamo facendo una sorta di giro intorno al mondo, intorno alle artiste, trovando tra loro varie connessioni di qualsiasi genere, possono essere dirette, personali, possono essere anche semplicemente delle ispirazioni che un artista, insomma, ci dà. Ci fa venire in mente e quindi ci fa pensare a qualcun'altra. E così, insomma, un percorso bello lungo, come dicevi tu, 7 mesi, insomma, ne abbiamo già tirate fuori un bel po', Un bel po', e adesso capiremo, anche se andiamo in onda la settimana prossima o l'altra ancora, perché c'è Pasqua in mezzo, dobbiamo fare come al solito qualche giro di palinsesto, ma ovviamente poi lo saprete leggendo il palinsesto, lo saprete sicuramente. Però se non è la prossima è l'altra ancora, quindi adesso capiremo. Vabbè, voi alle 5 e un quarto sintonizzatevi sul martedì, che fa sempre bene. Comunque anche oggi il palinsesto è ricchissimo. Insomma, visto che sono già le 17:29, siamo un pelino in ritardo e iniziamo, e ci perdiamo tanto in chiacchiere io e te, iniziamo la chart di oggi. La mia prima canzone è una canzone di questa artista che si chiama Mira, e la canzone si chiama Got Shepherd, che è tratta dal suo ultimo disco. E io ricordo alle nostre ascoltatrici, che ormai probabilmente lo sapranno, ma appunto per chi ci ascoltasse per la prima volta, che non stiamo mai interrompendo la nostra rete di connessioni, e partiamo sempre da dove ci eravamo lasciate. Quindi abbiamo chiuso la scorsa chart sulle note di Emily Wells, questa musicista sui generis che coniuga violino e pop, che suona praticamente qualsiasi cosa in realtà, sì. Pure penso il tavolo. Io invece volevo farvi ascoltare Mira, perché nel suo ultimo disco, proprio questo che sta appena, che in realtà è ancora non è ancora uscito, uscirà esattamente fra un mese, il 13 maggio. Cioè, quindi questo è un'anteprima. Bello. Rubiamo il mestiere a Sister of This Blooming. Insomma, e questo è un'anteprima. Vabbè, lei ha già fatto numerosi dischi. In realtà parliamo anche lei di una cantautrice musicista statunitense che, insomma, a 18 anni si è trasferita a Washington per studiare, ha trascorso un periodo in Norvegia, ha debuttato già nel 97 e ha lasciato la sua jazz band in cui è cresciuta, formando poi un gruppo di Riot Girl. È lesbica, oltre che pacifista e amante della natura. Questo gruppo si chiamava The Drivers, forse qualcuno lo conosce, e non ha ottenuto molto successo. Insomma, poi alla fine si è lanciata nella carriera solista, ha registrato diversi dischi, tra cui anche un album di cover quando l'America era in guerra con l'Iraq, quindi tipo nel 2003, insomma, dopo tutta la storia delle Twin Towers, eccetera. Quindi parliamo di un'artista abbastanza impegnata. La connessione era ovviamente la Emily Wells direttamente, nel senso che nel suo ultimo disco, tra i tanti musicisti che suonano con lei, c'è anche Emily Wells, che suona la viola e il violino. Si limita solo tanto a terra, diciamo. Ah sì, perché lei il suo strumento, insomma, suonava la musica classica, perché lei ha studiato il violino. E quindi ci ascoltiamo questa canzone, non sapremo neanche se sarà il suo singolo dal disco nuovo, ma ci piaceva questa, quindi mettiamo questa. Se la trovo, perché mi si è persa, eccola qua. Your throat, I will eat you whole. I will let you know who's in control of the mountain. I will bello questo pezzo, vero? Anche a me piace molto. Adesso sono curiosa di ascoltare l'album. Tra l'altro lo dicevamo mentre andava il pezzo, mentre ascoltavamo il pezzo, che Maria è un artista che io ho proposto spesso perché mi piace molto. In particolare negli ultimi anni ha fatto tantissime collaborazioni, il suo progetto con Tao Nguyen, che si chiamava Tao and Myra, l'abbiamo passato nel 2011, credo, l'abbiamo passato a Sisterhood. E proprio quello, diciamo, il mio collegamento per la prossima artista, che sarà Tune Yards, che io adoro, perché quell'album Tao and Myra è stato prodotto da Meryl Garbus, appunto al secolo Tune Yards. Meryl Garbus è un'artista straordinaria, se avete la possibilità andate a vederla dal vivo, perché veramente, oltre a essere di una gioia, di una felicità, di una proprio contentezza quando si esibisce live, che non sempre succede, come Lidy Franco. Ed è assolutamente contagiosa, per cui si diverte un sacco e fa divertire un sacco. E poi ha questa bellissima particolarità che crea loop sui suoi vari ukulele, percussioni varie, anche di ispirazione africana, visto che lei ha studiato anche il canto africano, lo mette molto nei suoi pezzi, quindi insomma è un'altra di quelle musiciste autartiche che c'è, sì. Lei da sola sul palco, sembrano 15. No, lei si accompagna con una band, basso, batteria, però insomma alla fine se l'inizio del pezzo, in realtà si capisce che tutto il pezzo lo crea lei, no? Tutto il ritmo, tutta la parte melodica, quindi insomma e lo loopa lì al volo, quindi è molto divertente da vedere. Insomma, Tune Yards anche lei una bella carrieretta. Lei ha cominciato con la cassetta da bedroom, insomma registrata a casa sua, poi insomma l'ha proposta in giro, ha avuto un bel successo e quindi è riuscita a incidere un paio di album, sta per uscire anteprima anche questa, il suo nuovo album, il 6 maggio, quindi insomma l'ascolteremo poi più avanti, che si chiamerà Nicky Neck, e io vi faccio ascoltare questo bellissimo pezzo che si chiama Gangsta. Lei è Tune Yards. Bang, bang, bang. state ascoltando The Chart, questa è la 20 Yards, che giocava con svariati strumenti probabilmente. Mi ricorda un po' il modo di fare anche delle cocorosi, soprattutto delle prime. Sì, è vero, è vero, è vero. Io me non mi ricorderò mai un concerto all'Alpheus dove loro si apparecchiarono praticamente per terra, suonavano su due sgabellini e si apparecchiarono per terra di tutto, dal trenino, da bambino, lo xilofono minuscolo, la macchina che suonava, quella con la storia dell'ambulanza, niente, tutti i giocattoli. Tra sì, l'altro, devo dire, col tempo hanno perso un po' questa verve, purtroppo, e anche il suono lascia un po' a desiderare, però all'inizio era divertente anche andarla a vedere solo per capire che cosa caspita suonassero. Ogni volta vedo tipo veramente la macchina, mi ricordo era sì una di quelle macchinine con le sirene, quindi tipo l'ambulanza o vari altri. Vabbè, comunque state ascoltando The Chart, questo è sempre martedì autogestito femministe e lesbiche. Allora, viaggio continua, terzo step, terzo passaggio, The Schimpfscheyer Family Trio, che sembra un gioco di idea, lo so, non ridere, su via, me la sono cercata io, complicata, che è una band che in realtà appunto è un trio, come si evince dal titolo proprio, cioè dal nome stesso che hanno, che è capitanato da Casey Kudsen. E io in realtà veramente volevo quasi chiudere il cerchio di The Chart, poi ho pensato che in realtà la stagione non è ancora finita, quantomeno fino a fine maggio, giugno, saremo metà giugno, fine giugno saremo sicuramente in onda, e perché il pezzo che abbiamo ascoltato, che è appena finito, è entrato nella colonna sonora di tre serie TV. Una è la serie TV che ha dato il via a The Chart, appunto, come raccontavamo prima, 7 mesi fa, ovvero Orange is the New Black, perché stanno anche nella colonna sonora, da dove noi siamo partiti, con Regina Spektor che cantava la sigla di questa nuova serie TV, che web in realtà su Netflix, ma in giro la potete trovare e scaricare senza problemi, cercatela perché è molto figa, molto molto particolare. L'altra era Wiz, che ha fatto capolinea anche questa nelle nostre chart qualche mese fa, ricordate Little Boxes, quella canzone ricanta 8 miliardi di cover eccetera. La terza serie su cui ci stanno è The Good Wife, che comunque mi andava di nominare perché è una serie che silenziosamente sta acquistando tantissimo pubblico ed è fatta molto molto bene. Ce la consigli? Io me la vedo, è una di quelle che non appartiene, non ha grossi picchi. Ha una serie un po' più cervellotica, meno sempre sul potere le cose, però molto interessante, recitata molto bene da quella che era e fu l'infermiera innamorata di Clooney in Yard, adesso lo perdonate, non mi ricordo come si chiama. Ah, bellissima, la diceva tra l'altro. Esatto, e Big, quello che per Sex and the City era Big, questi sono i due, io vado a personaggi, non mi ricordo mai i nomi degli attori. Vabbè, comunque, è interessante, però poi alla fine ho pensato che ancora era presto per chiudere il cerchio della prima stagione di The Chart, quindi io ho pensato di farvi ascoltare questo trio capitanato dalla sassofonista, perché la stessa sassofonista ovviamente ha lavorato nei tour con Tune Yards, che girava con tre sassofoni, cioè lei 800 strumenti e tre sassofonisti live, di cui uno appunto era Casey Kudsen. E questo pezzo in realtà è molto bello, io l'ho trovato tra l'altro si può scaricare proprio dal sito suo. Sì, è vero, gratuitamente. Gratuitamente, si chiama January, non è proprio il mese. Ah, però non ce lo fa ascoltare, perfetto. Adesso provo a mettervela. Sì, E insomma, scusate, ma stiamo cercando di far partire appunto Casey Knudsen, che è un nome difficilissimo, oltre al suo trio, che è Schimmer Family Trio. E con questo pezzo si chiama January, solo che appunto, sapete, ci sono a volte problemi tecnici. Vediamo se riusciamo, ci siamo attrezzate. Forse sì. Eccolo. Thank you. Eccoci qua, era bellissimo questo pezzo, veramente bello, insomma, mi fa piacere anche che The Chart anche a noi spesso fa scoprire delle nuove artiste, in particolare Casey è appunto una sassofonista, come avete potuto ascoltare, veramente molto dotata e è anche un'educatrice, quindi insegna anche, quindi insomma, oltre ad essere una compositrice, quindi un'artista, una musicista a tutto tondo, fa concerti continuamente, se andate sul suo sito. Poi vi ricordiamo che su www.womenchart.wordpress.com non solo troverete il podcast delle puntate, ma troverete anche le playlist, perché a volte le artiste che nominiamo non sono tanto facili da appuntarsi così mentre si è magari in macchina o da qualche altra parte, quindi insomma trovate anche la playlist, quindi le artiste che vi interessano poi potete approfondirle per conto vostro. E in effetti non volevo rimanere nell'area jazz eccetera, quindi insomma mi sono allontanata un pochino, in realtà mi sono fatta ispirare da un altro dei suoi progetti, dei suoi vari progetti, questo si chiama The Holly Martins, che è un altro trio guidato da Casey, in cui c'è anche un po' di sperimentazione vocale, quindi anche questo molto molto interessante, in cui ovviamente lei fa da sax. E in realtà quello che mi ha ispirato è il nome di Holly, mi ha fatto venire in mente un'artista che io adoro e che è un'artista, una di quelle artiste strane che una cosa quando la vedi dal vivo, i suoi pezzi hanno un colore, un'emozione e la sua voce arriva in un modo quando si esibisce dal vivo, e poi quando entra in studio per qualche strana ragione, non lo so se è colpa sua, è colpa di chi la produce eccetera, i pezzi cambiano in qualche modo e perdono quell'immediatezza, quella bellezza che secondo me fa parte proprio della sua bellezza anche più profonda. Holly Miranda, che poi in qualche modo ritorna anche, artista americana molto giovane, che ritorna anche un po' con quello che dicevi prima, perché diciamo le indiscrezioni la danno per fidanzata, lei insomma anche lei lesbica, anche se è una cosa di cui non vuole parlare perché vuole essere vuole che si parli soprattutto della sua musica, anche giustamente, è compagna di Kate Manning, che è appunto la Shane. Ma come fate senza di noi vediamo questi gossip? Beata lei, di The L Word, insomma anche Holly Miranda. Adesso ci saranno donna. Avrei distrutto mille sogni. Dici per Shane o per Holly? No, andatevi a vedere anche Holly, perché anche lei è molto molto carina, insomma, e poi ha una voce che secondo me è veramente veramente fantastica, quindi insomma anche lei ha cominciato da sola producendosi insomma un album che è impossibile trovare, mai stato prodotto, quindi se volete dovete andarlo a vedere dal vivo e procurarvelo. Ha fatto parte di una band che si chiama The Jealous Girlfriends per un po' di anni e poi finalmente è partita da sola e ha prodotto appunto questo album che si chiama The Magician's Private Library. Io vi faccio ascoltare, come vi dicevo, un pezzo in realtà contenuto in questo album che si chiama Waves, che però appunto lei in questo brano che ho scelto canta dal vivo, perché secondo me lo fa molto meglio. Holly Miranda. I don't know. Bello live anche. Bello, sì, infatti stavo pensando la stessa cosa. Soprattutto quando non puliscono dai live l'atmosfera, quindi magari il pubblico. Perché adesso fanno dei live asettici. Mi dicono che sono live, ma non è rimasto più niente. Cioè, sono pulito, perfettissimo, perché ormai è registrato con tecnologie d'avanguardia, dal mixer. Quindi sì, il pubblico ce lo infilano dopo, secondo me. Il pubblico manco c'è stava ormai prima. Cioè, giusto i cori forse entrano nella registrazione. Perché che io abbia memoria, tanto meglio bootleg, che torniamo alle cassette. Io ho diversi bootleg, ma che adesso bootleg, cioè, si sentono male, ragazzi. Si deve sentire male, cioè live, l'hai rubata quella. Sì, no, a volte poi tra l'altro questo tipo di, diciamo, del sentirsi male oppure delle particolarità dei suoni che non c'entrano con la versione vera, originale, eccetera, eccetera, poi diventano un po' anche, almeno io li imparavo a memoria, anche degli errori oppure le cose strane. Io conosco, io so, se metti il live di Janis Joplin, Joplin Concert, dove lei fa dei monologhi lunghissimi, uno prima di introdurre Ball and Chain e altri, eccetera, eccetera. Io pure quelli so a memoria, perché ormai il disco ascoltato 3 miliardi di volte. Fanno parte delle lyrics del testo della canzone. Ormai sì, sono andati. Cioè, Vabbè, erano più belli, dai, su. Comunque, a proposito di cassette, oggi vedevo un video sul tubo di un esperimento, comunque uno di questi video che hanno messo insieme una serie di adolescenti, preadolescenti e adolescenti, li hanno messo in mano più, sì, in realtà preadolescenti, erano più piccoli, i Walkman, i mangiacassette. Così, senza presentarglielo. Senza presentarglielo. Ci sono scene bellissime, tipo, che cos'è, ovviamente in inglese, tipo, ma cos'è questo, come si usa, dove si accende, serve? No, non riuscivano neanche ad aprirlo. Fantastico. Non riuscivano ad aprirlo. Alla fine una ragazzina dice: è così complicato, dopo che è riuscito, insomma, poi man mano i passaggi, qualcuno gliel'hanno aperto addirittura ad alcuni, perché proprio non ce potevano arrivare, tipo, ma la musica dove si sente, poi gli hanno dato le cuffie, hanno capito, insomma, no, sono riuscite a mettere la cassetta dal verso giusto. A un certo punto la ragazzina dice: ma è così complicato. È incredibile, cioè, questa percezione, no? In realtà, sì, cioè, io ci sono cresciuta col Walkman, il mio me lo ricordo ancora, anni 80, bianco, da Panasonic. No, però in realtà, cioè, non è rettangolarissimo, non è niente neanche bombato, avanti, indietro, stop, play, fine. Fine, basta, è volume, basta. Esatto, è volume. Tutto sommato, di cos'altro abbiamo bisogno? Niente, infatti, io non ho ancora buttato le cassette. Va bene, insomma, queste The Chart, sono le 18.04, siamo quasi verso la fine del nostro viaggio. Io rispondo a questa canzone con Tegan e Sara, che sono un duo, e questa scelta è stata in realtà abbastanza semplice, perché ho visto che lei, per promuovere il disco di cui tu parlavi prima, cioè quello, insomma, il suo primo da solista, è stata opening act, come si suol dire in inglese, cioè ha fatto l'artista di apertura, salgo sul palco prima dell'artista principale e suono le mie canzoncine, magari a qualcuno piacciono, così qualcuno mi conosce, proprio nel tour di Tegan e Sara nel 2008, quindi in realtà una connessione abbastanza... La lobby lesbica americana. La lobby. Infatti, le due artiste, che sono sorelle gemelle, tra l'altro, sono entrambi lesbiche dichiarate, un punto anche di riferimento della comunità LGBT, sono canadesi. Secondo me non hanno anche bisogno di troppe presentazioni per le nostre ascoltatrici. Comunque, musiciste, cantautrici, suonano entrambe le tastiere e le chitarre, cioè, quindi sono un doppio. Ne prendi una e vinci due. Hanno debuttato nel 1999, ma è solo più o meno che col quarto disco che hanno raggiunto una certa notorietà, diciamo, hanno cominciato ad essere più conosciute. Il disco si chiamava So Jealous. Ma sono quelle che suonano a tutti i festival lesbici in America? Vabbè, cioè, certo, lo immagino, penso proprio giro, di sì. Se ti fai un giro sui vari festival, che ci sono tantissimi, soprattutto negli Stati Uniti d'estate, dove organizzano queste, è sicuro, bellissime. Poi la musica folk è abbastanza, sì, insomma, sì, se sono abbastanza. Punto di riferimento per la comunità, vuol dire sostanzialmente quello: veniamo a darvi una mano, probabilmente sempre, anche gratis, come al solito. Invitiamole, invitiamo. Se sono in ascolto, Tegan, Sara, per favore venite anche a Roma. E insomma, tanto che da quel disco addirittura i White Stripes ci fecero una cover e sono entrate nelle classifiche americane, diciamo, con gli ultimi due dischi, nelle chart, come ci piace dire. E tra le altre cose, il motivo per cui ho scelto un loro brano, che è Love Type Things, è perché questa è la canzone che suonano live da special guest in una puntata di Deal World. Oggi niente, ci facciamo la puntata numero 13, ci auto... Vabbè, mettiamo in campo quelle che sono state un po' tutte le nostre connessioni, le nostre idee, quando abbiamo pensato anche questa trasmissione. La nostra sigla, che conoscete, è quello sketch tra Dana e Ellis, che raccontano, che lei gli racconta, il famoso The Chart, lo schema. E questa era la terza stagione, puntata numero 11, stagione molto triste un po' per tutte, perché è la stagione in cui muore il personaggio, chiaramente, di Dalan, e proprio in questa puntata, e ci stanno Tegan e Sara che cantano questa canzone, appunto, dolcissima, live sul palco del famoso locale del Planet. Eccole qua. breve ma intensa. Breve e romantica, veramente. Molto. Mi sto sciogliendo, devo dire. E insomma, le sorelline, loro hanno pensato bene, le sorelline Tegan e Sarah, di suonare insieme per non oscurarsi a vicenda. Insomma, hanno pensato, ma certo, sai che c'è? Suoniamo insieme. Ci siamo. Se va, va, se non va, non va, per tutte e due. E diciamo, questo un po' è stato il mio spunto, il mio là per la prossima connessione, che sarà Erma Franklin. Forse non tutte la conoscono, Erma Vernice Franklin, che è la sorella meno nota di Aretha Franklin. È la sorella più grande, tra l'altro, morta qualche anno fa, che diciamo appunto ha avuto in realtà meno successo della sorella. Pare che la ragione più probabile sia il fatto che Erma, a differenza di Aretha, ha una voce molto roca, molto particolare, che in realtà a noi ci piace, insomma a me piace moltissimo, e il pezzo poi che ho scelto, insomma, farà piacere probabilmente riascoltarlo, l'abbiamo già ascoltato nelle nostre playlist precedenti in una versione di Gianna Nannini che tu avevi proposto, ed è appunto, sto parlando di Piece of My Heart, che in realtà Erma fu la prima ad incidere, appunto scritto e prodotto da Bert Burns nel 1967. Fu lei la prima voce a interpretare questo pezzo, che poi l'anno dopo fu rinciso da Janis e la Big Brother and the Holding Company, e in qualche modo questa incisione oscurò, sì, insomma, divenne la sua, il suo pezzo, insomma, questa incisione oscurò la versione che invece è molto bella di Erma. Quindi mi piaceva anche, come dire, raccontare, magari andatevela poi ad esplorare, ci sono un po' di cose sui vari wiki, ma insomma in generale sul web, di questa artista che insomma non è stata molto fortunata nella sua carriera, morì tra l'altro anche di un tumore alla gola, insomma, quindi un po' oscurata, ma non tanto dalla sua sorella, sì, che decisamente è un personaggio ingombrante da avere sulla scena accanto, con la quale però nella carriera poi ha collaborato tante volte. Lei per esempio c'è anche nel film The Blues Brothers e fa la corista della sorella. Insomma, mi piaceva ricordarla. Erma Franklin, il pezzo è Piece of My Heart. Non so perché anche questa versione, diciamo che Janis la sporca ancora di più poi quando la inciderà, che rende straziante quell'idea del prenditi un pezzo del cuore, che probabilmente la cosa per cui poi ci siamo tutti affezionati alla sua versione, non a questa. Vabbè. Invece la mia prossima, restiamo in realtà su questi mostri, in qualche modo mostri sacri della musica, che hanno fatto un po' la storia delle canzoni che ascoltiamo, che abbiamo ascoltato. Sono le 18:15, quindi siamo quasi in chiusura di The Chart, così rigiriamo e ribaltiamo il giro. Cioè, abbiamo una canzone in meno oggi, ma l'unica cosa che possiamo fare io e Don è ribaltare questo giro, cioè chi comincia la puntata. Alle volte lo facciamo ovviamente togliendone una da adesso e ricominciando poi la settimana prossima o fra 15 giorni, adesso vedremo. E la canzone che vi volevo far ascoltare io per chiudere insomma questo The Chart è Over the Rainbow, che tutti conosciamo, cantata proprio da Judy Garland. E la connessione qual è stata? È stata in realtà la canzone in quanto canzone, nel senso che quando ho ascoltato questa versione di Peace of My Heart di Erma Franklin, che tra l'altro non sapevo che la prima versione incisa fosse la sua, quindi ovviamente sempre ascoltate The Chart perché si scoprono veramente tante cose. Noi stesse scopriamo tante cose. E poi insomma sono andata a vedere un po' la sua carriera e poi ovviamente ho girato su Aretha Franklin perché è stato inevitabile, e pensavo appunto a Respect, che è un'altra grandissima canzone che è stata incisa per la prima volta da Otis Redding, e poi insomma ed è stata una delle canzoni ed è incluse nel, e ho letto che era una delle canzoni incluse nella chart Songs of Century. Ho detto, oh. Hanno fatto la classifica, è stata l'industria discografica americana, la RIA, che insomma ha stilato questa particolare chart delle canzoni del secolo. L'ha fatto in realtà attraverso la collaborazione del National Endowment for the Arts e di una casa editrice di libri scolastici. Insieme poi hanno praticamente messo in piedi questo progetto per cui hanno chiesto sia alle scuole, ma non solo, poi insegnanti, lavoratori nei media, nella musica, eccetera, di fare la classifica delle 365 canzoni che per loro erano le 365 canzoni importanti, storicamente importanti, insomma, e quindi le canzoni del secolo. E in realtà poi loro hanno utilizzato solo il 15% delle canzoni che gli sono pervenute per stilare questa classifica, e in testa a questa classifica ci sta Judy Garland con Over the Rainbow. Wow. Infatti ho detto, oh, mamma mia, wow. Insomma, questa sua canzone Over the Rainbow è stata scritta nel 1939 per il musical Il Mago di Oz, ed è cantata nel musical dal personaggio di Dorothy, che è interpretato appunto da Judy Garland. Il film, come sapete tutti, è ispirato a Il Meraviglioso Mago di Oz, che è il primo di 14 libri scritti dal statunitense Frank Baum, e in realtà poi Over the Rainbow, oltre l'arcobaleno, anche per lo stretto legame che Judy Garland aveva e ha avuto con la comunità LGBT nei decenni, è diventato uno degli inni della comunità LGBT nel mondo. Insomma, chi di noi non è andato a un Pride non ha sentito, non si è beccato per sbaglio o per fortuna Over the Rainbow, quindi forse è un po', per noi un po' sovrascoltata, in realtà la conosciamo bene, fin troppo bene, l'abbiamo sempre tanto sentita. Oltretutto, sempre in tema di cover, e lo sapete, ne parliamo tante volte, The Chart è anche uno dei modi di trovare le connessioni per le artiste, e questo, chi poi si appassiona alle canzoni, ai testi delle canzoni, alle musiche, le ricanta. Di versioni di Over the Rainbow ne esistono una quantità aiuta spropositata, e chissà che non saranno le connessioni a futuro della prossima puntata di The Chart. Intanto vi facciamo ascoltare Over the Rainbow e poi ci salutiamo adesso, che vogliamo fare? No, dopo, dai. Dai, ci salutiamo, ascoltiamoci Over the Rainbow, tanto per non mettervi la versione da disco che probabilmente avete sentito tutti, ve ne metto una di lei che canta live alla Carnegie Hall, mi sembra, una cosa del genere, comunque qualche posto in Inghilterra. Over the Rainbow. way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, blue con i live. Insomma, siamo in chiusura, vi salutiamo, vi lasciamo, insomma, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a probabilmente la prossima settimana. Sì, molto probabilmente la prossima settimana, sempre alle 17:15 qui dagli studi Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo www.womenchart.wordpress.com per podcast e playlist delle nostre trasmissioni, come anche mfla.noblogs.org, non solo per la nostra trasmissione, ma insomma per tutte quelle che si danno il seguito qui durante il pomeriggio del martedì femminista e lesbica autogestito. Abbiamo già rubato 10 minuti a Atti e Misfatti, quindi li restituiamo al volo. Buon proseguimento e buon ascolto, restate con noi. A presto. Presto, ciao.